Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanelli in redazione, Matteo Comes in regia. Oggi in attesa degli attacchi di Vincenzo Nibali sui Pirenei, poi parleremo anche di questo. È nostra intenzione rispondere alla più ricorrente delle domande. Da una parte c'è il fair play finanziario con l'Inter che lo rispetta, il Milan che è costretto o si autocostringe a rispettarlo, Barcellona e Real Madrid che fanno storia a sé, e poi ci sono le grandi capitali del grano che sono Manchester, Sponda City e adesso Parigi con quello che sta facendo il Paris Saint-Germain. Vogliamo rispondere a questo grande interrogativo non senza un aiuto fondamentale come quello di Marco Beninazzo, che ha sceso le scale dal piano di sopra del Sole 24 Ore. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Allora, il fair play finanziario evidentemente per gli sceicchi non conta, non fa testo. Manchester e Parigi, leggevo, hanno rovesciato sul mercato 485 milioni di euro, aggiungiamo il Malaga, sono 560, e hanno in qualche modo però risollevato le sorti di un calcio europeo che nel suo complesso perde un sacco di grano. Hanno immesso liquidità, mettiamola hanno così. Hanno immesso liquidità. Come è stata costretta a fare la BCE con qualche governo europeo, come sarà costretta a farlo nei prossimi mesi. Fino a qualche anno fa sarebbe stato un bene e basta, nel senso che arrivano soldi freschi nel calcio, una squadra vende i campioni, li incassa e fa il suo mercato e così tutto gira. Il problema è che ci avevano raccontato tale Michel Platini, presidente della UEFA, in questi ultimi quattro anni, dal 2008 in poi, che questa roba qui non si poteva più fare, cioè non si poteva più spendere risorse non incassate, risorse che vengono direttamente dalle tasche del mecenate di turno, dall'oligarca russo, così come appunto dagli sceicchi. O da Berlusconi o Moratti in altri tempi. O da Berlusconi o da Moratti in altri tempi. L'Inter in 5 anni aveva perso 660 milioni, l'Inter 260, tutti i soldi che le rispettive compagnie hanno ripianato per garantire la continuità aziendale. Il Paris Saint-Germain, il City e il Chelsea qualche anno fa invece hanno adottato una politica anti-fair play finanziario. Ora, il fair play finanziario, posto che queste sono le regole con una serie poi di addentellati tecnici su cui magari non è il caso di soffermarsi oggi, saranno applicate dal 2013-14. Cioè, fair play finanziario non può essere applicato preventivamente, non si può dire a una squadra non puoi spendere. Però io sono molto curioso di vedere quello che accadrà quando il Paris Saint-Germain, la proprietà dello sceicco Al Thani, si presenterà a Nyon, che è la sede della UEFA, presenterà i bilanci, quello che si chiuderà nel 2012 e quello che si chiuderà nel 2013, e sforerà, ovviamente, perché i parametri sono questi, quel limite accettabile di 45 milioni in due anni, che è il limite appunto di rosso tollerabile secondo i parametri del fair play finanziario. A quel punto che succede? A quel punto, in teoria, la UEFA dovrebbe chiedere una sorta di piano di rientro, cioè dovrebbe dire: signori, avete speso troppo, ora iniziate a risparmiare, applicare una serie di sanzioni fino all'esclusione dalle competizioni internazionali. Questo è quello che si chiama fair play finanziario. Questo è quello che per il momento è fissato. Vedremo Platini come e se avrà veramente poi il coraggio di applicarlo alla società parigina, e sarà bello capire se appunto il presidente della UEFA, che su questa battaglia si sta giocando la poltrona della FIFA, avrà il coraggio di escludere proprio la squadra del suo paese. Sì, difficile pensarlo, perché insomma in un mondo normale, se uno arriva, si compra una macchina, i soldi per metterci tutta la benzina, una Ferrari, una Porsche, i soldi per metterci la benzina, questi sono fatti suoi, quindi è difficile dire a questi personaggi, spiegare a questi personaggi, è un problema di soldi, loro ti rispondono, noi problemi di soldi non ne abbiamo. Sì, ma se andassero a investire per esempio negli sport americani, troverebbero regole diverse ma principi analoghi, cioè con dei limiti e delle regole che servono a mantenere il piano in competizione, le squadre più o meno allineate a garantire quello spettacolo. Ovviamente io non sono di quelli che reclamano un'importazione di regole dagli Stati Uniti in Europa, perché ci sono troppe differenze, ma almeno sui principi bisognerebbe essere conformi alla lealtà e ai principi di sana concorrenza. È chiaro che se io su una società come il Paris Saint-Germain, che nel 2011, al 30 giugno 2011, che l'ultimo bilancio pre era catariota, aveva 100 milioni di fatturato e quindi si poteva, non so, paragonare al Palermo, al Genova, alla Fiorentina, insomma squadre medie in Italia, e pagavano circa 69 milioni di ingaggi. Arrivo in due anni, spendo 250 per i cartellini che poi dovrò ammortizzare. E in più, prometto, prendiamo gli ultimi quattro, Thiago Silva, Ibrahimovic, Verratti e Lavezzi. Solo questi quattro costeranno 50 milioni più o meno tra ingaggi e imposte. Sì. È chiaro che faccio saltare qualsiasi equilibrio e alla faccia del fair play finanziario. No, ma qualsiasi equilibrio anche all'interno della stessa Francia, che insomma si è interrogata sulla ammissibilità di questi ingaggi. Un calcio francese per cui nel quale il Paris Saint-Germain sarà una corazzata insopportabile in uno stadio piccolo e sempre più in crisi, perché... mi risulta che anche Montpellier abbia dovuto dismettere alcuni dei suoi pezzi pregiati, così come hanno fatto tutti gli altri. Cioè la crisi esiste, come nel calcio francese c'è il Paris Saint-Germain che fa storia a sé. A latere io continuo a interrogarmi sulla opportunità di lasciare queste corazzate negli stagni in cui non appartengono più Barcellona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United, Bayern, Monaco, tutte le grandi d'Europa che vivono su livelli che gli altri competitors nazionali non possono permettersi. Io sono d'accordo con te su questo punto e qualche presidente anche in Italia sarebbe felicissimo se si arrivasse a una competizione per le big europee sul modello NBA, tanto per intenderci. Io credo che prima o poi ci si arriverà, perché il disequilibrio, il dislivello tra le big e le formazioni che competono a livello nazionale sta diventando incolmabile. Il fair play finanziario voleva porre un argine, però ha anche dei rischi, perché noi insomma lo citiamo come un elemento che dovrebbe portare equità. Rischia anche però il fair play finanziario di cristallizzare certe situazioni. Certo. Chiaro che se tu hai una serie di introiti più o meno strutturali e spendi in maniera adeguata, per esempio Barcellona e Real Madrid, che spesso vengono citate, sono state citate molto in questi giorni, perché si è detto insomma la crisi del sistema bancario spagnolo comporterà un forte ridimensionamento di queste squadre. Ecco, io ci andrei più cauto. È chiaro che non potranno più spendere e espandere, anche per una questione di opportunità, però Real Madrid e Barcellona hanno rispettivamente 480 e 450 milioni di fatturato, sono le prime due in Europa, soldi cash che entrano ogni anno dalle TV, perché le contrattano individualmente dal botteghino, sono soldi che entrano, quindi non hanno bisogno ora di ricorrere al sistema bancario. I debiti non sono così alti a breve termine per le banche e pagano in ingaggi circa 200 milioni, ma è il 50% del fatturato. Certo. Andiamo a vedere i dati delle squadre italiane, appunto delle big italiane. Si va ben oltre, nel migliore dei casi, il 75%, se non l'80%, se non il 90%. Beh, ma sai Marco, qui siamo, l'abbiamo detto molte volte anche insieme, siamo rimasti ancorati ad un sistema di gestione del sistema calcio, che è quello degli anni 50-60, cioè c'è il padrone con le belle braghe bianche che caccia le palanche se ce le ha, se non ce le ha più finisce la festa e i tifosi si devono rassegnare. Anche oggi sulla Gazzetta ce l'ho lì sotto gli occhi: imperi in crisi, mecenatismo all'italiana, addio. Ma è la realtà, cioè o ci conformiamo ad un sistema di gestione più evoluto oppure secondo, io trovo giusto anche che chi abbia i quattrini e la possibilità di spendere lo faccia. Tanto sempre guardando le cifre, grazie Paris Saint-Germain a nome del calcio italiano, perché Leonardo ci ha versato 177,5 milioni, poi dite che non è un amico del nostro calcio. Beh, è uno che ha speso soldi non suoi e che sì, evidentemente conoscendo bene determinati calciatori li ha portati a Parigi. Ed il problema è che determinate riforme strutturali bisogna ammetterle e tentare di farle quando come dire, possono essere governate. In Italia, e non solo nel calcio, purtroppo si aspetta sempre la crisi, si aspetta sempre che ci sia, come dire, il momento di massima emergenza per prendere strade nuove. Se questa ormai è una realtà che dobbiamo accettare, auguriamoci che con l'arrivo di questi soldi si instauri un nuovo regime. Ecco, ora sarebbe un peccato, lo so che i tifosi rossoneri ora magari si arrabbiano, ma andare a spendere ora 25 milioni, 30 uh-huh. milioni per Tevez o per qualche altro top player. Sì, sì. Ma tra l'altro stamattina Galliani lo ha ammesso per la prima volta, ha detto che l'Italia non è più un paese per top player, bisogna farli e crearli in Italia. Non è più un paese per ricchi. Non è più un paese per... è un paese per vecchi, in compenso. No, ma al di là di questo, ma sai, in questi giorni si è discusso molto con i tifosi, magari lo faremo anche oggi, vedo Alessandro da Milano già in linea. Il problema è spiegare chiaramente le cose alla gente, perché io credo che se i dirigenti di Milan e di Inter... in omaggio a fair play finanziari, in omaggio a piani di austerity, in omaggio a squadre che finiscono e che non sono immediatamente riproducibili, viste le difficoltà, se si spiegasse ai tifosi in maniera chiara, guardate, per ricostruiamo una squadra, la colonna vertebrale del Milan degli anziani non esiste più ed era quella su cui si innestavano i vari campioni che venivano... che venivano tenuti in riga, che venivano resi metabolizzati facilmente dal Milan. L'Inter ha fatto quello che ha fatto, ha dovuto per ragioni anagrafiche e di bilancio smontare la squadra. Si riparte da zero, c'è questo progetto, magari tra 3 anni torneremo a vincere. Io credo che se si facesse un discorso onesto di questo tipo nessun tifoso avrebbe da obiettare, Marco. No, immagino di sì. Il problema è che siccome avviene oggi in piena emergenza, devi spiegare perché non l'hai fatto 3 anni fa, devi ammettere che hai fatto un errore. Per esempio l'Inter dopo il famoso certo. triplete aveva il coraggio di fare cassa con tutti i campioni, ripartire o perlomeno venderne alcuni e trovare dei sostituti. Prendiamo il modello Barcellona, è un modello vincente anche perché Iniesta, Messi non andranno mai via dal Barcellona, ma mettiamo che Barcellona avesse esigenza di fare cassa, avrebbe in casa i sostituti. Se non li crei, se hai per esempio un centravanti come destro e lo usi come pedina di scambio e poi ora cerchi di rincorrere in qualche modo, vuol dire che degli errori sono stati fatti. Però con Longo l'Inter mi pare che abbia adottato una tattica, una strategia opposta, figlia dei tempi, non so che dire, meglio tardi che mai, aggrappiamoci a questo luogo comune e accettiamo il fatto che per qualche anno la Serie A sarà un campionato marginale in Europa, le grandi partite... Poi bisogna spiegarlo ai signori della TV che l'hanno pagato come un campionato buono. Però per fortuna il contratto è stato fatto fino al 2015, esatto, quindi per il momento un miliardo... Gabbato lo santo! Speriamo che entro il 2015 le società siano in grado di acquistare o perlomeno, come ha detto Galliani oggi, fare dei top player, costruirseli in casa e non esportarli. Il caso di Verratti, guarda, il caso di Verratti è emblematico. Io avevo letto di Verratti già qualche anno fa, si parlava insomma di un buon giocatore. È chiaro che se Verratti ce l'ha il Pescara e arriva al Paris Saint-Germain, la Juventus non può fare nulla, il Napoli non può fare nulla. Se Verratti è in casa del Napoli o in casa della Juventus, forse qualche resistenza in più ai 15 milioni offerti dal Paris Saint-Germain la si può fare, e hai un giocatore di prospettiva che ha 20 anni su certo. cui costruire la squadra. Perciò dicevo, c'è bisogno di lungimiranza e di pianificazione. Non puoi mentire ai tifosi dicendo ogni anno compriamo il top player. Ricordo lo stesso Milan, l'anno scorso abbiamo fatto tutta l'estate con Mister X, poi è arrivato Nocerino, meno male dico io oggi, e dice Galliani, perché ha fatto il più grande affare del calcio italiano degli ultimi tempi con Nocerino. Però se ricorderai, se ricordi tuttora anche quello che sta avvenendo nelle ultime settimane con la Juventus, Van Persie, il top player, mi pare che oggi Marotta stia già facendo retromarcia, perché Van Persie costa, è soprattutto in ingaggio, certo. e quindi diciamo mi pare che si stia la Juve orientando verso altri lidi. Alessandro Milano, buongiorno. Buongiorno, posso intervenire? Sì. Volevo parlare appunto della Juventus. Io reputo gestita molto meglio la vecchia Juve, al di là degli scandali che Moggi ha fatto, ma io parlo proprio come gestione, perché seguiva la regola proprio del fair play finanziario, perché ai tempi, se non ricordo male, gli Agnelli non mettevano dentro i soldi che stanno mettendo adesso nella Juventus, ma Moggi, prendendo Zidane a poco, l'ha rivenduto a cifre esorbitanti e da lì ha ricostruito la squadra, che poi è andata di nuovo a essere protagonista in Europa. Quindi non è vero che se non si hanno i soldi non si può comunque tornare a vincere. Bisogna trovare i giocatori giusti e andare avanti così. Beh, anche da un lato, stiamo parlando di competenza da un lato, di regole dall'altro, di un sistema di gestione di un club differente come quello della Juventus, che evidentemente può permettersi in questo momento determinate operazioni di mercato a differenza di altre. La Juve ha ricostruito in questi anni una squadra, no? Da quella che ha disputato la Serie B facendo due aumenti di capitale da oltre 200 milioni, ha potuto spendere un tesoretto, diciamo, di 50 milioni in questa campagna acquisti, sia pur diluiti su alcuni anni, perché andrà in Champions, perché lo stadio ha fatto triplicare le entrate al botteghino, anche se restiamo sull'ordine dei 30 milioni, che se paragonati ai 100-130 che incassano Real e Barcellona fanno impallidire. In ogni caso la Juve ha dovuto fare i conti con un rosso di 95 milioni nell'ultimo anno, che è il suo record negativo storico. Il prossimo bilancio più o meno lo chiuderà su meno 60, meno 70. Sta facendo sicuramente degli investimenti che permetteranno alla Juve di dominare in Italia, certo, nei prossimi anni. In Europa non credo. In ogni caso restiamo nell'ordine di operazioni che non superano i 14-15 milioni, perché ricordiamoci che l'austerity non è che è cominciata quest'anno. L'anno scorso a calciomercato in Italia l'operazione più importante l'ha fatta il Napoli con Inler, ma siamo rimasti sui 15 milioni. Cioè giocatori da 15 milioni in su in Italia non arriveranno più, così come, ripeto, giocatori che pretendono stipendi dai 3-4 milioni in su difficilmente, insomma, potranno accasarsi con club italiani. Denis, Verona. Sì, buonasera. Dottore, io altra considerazione, allora io premetto che sono milanista e quindi ringrazierò il presidente Berlusconi, perché negli ultimi 25 anni penso che hanno voluto come noi milanisti, non ce ne sono e non ce ne saranno probabilmente, non si sa per quanti altri anni, sì. Anche perché non è detto che il Paris Saint Germain l'anno prossimo vinca la Champions League, no? Non è detto, ma compete. Competerà, però io volevo fare un'altra considerazione. Perché io amo il calcio, ho giocato a calcio a discreti livelli. A me sembra proprio, e anche gli europei l'hanno dimostrato, che proprio il tasso tecnico del calcio a livello europeo o mondiale sta scendendo molto. E mi spiego, il Milan ha venduto Thiago Silva e Ibrahimovic, adesso ha questo tesoretto da investire, ma chi? La Juve, oggi, anni fa, quando ha venduto Zidane, poi è andata a prendere Nedved, Thuram, Cannavaro, Buffon, forse Cannavaro no, però ha preso tre giocatori che ora in Italia, cioè, non ci sono, ma probabilmente, ma neanche in Europa, perché, che ne so, adesso parlano di questo del Porto, Rolando, Dzeko, ma sono tutti medio giocatori, cioè, sì. Mi sembra che proprio anche gli europei stessi, cioè, se consideriamo che l'Italia con Bonucci e Barzagli sono andati in finale, vuol dire che proprio, cioè, Iniesta, Cannavaro, Thuram, Blanc, dove sono? Cioè, voi cosa ne pensate? Quindi benvenga se Milan o le altre squadre investano sul settore giovanile, sui giovani, sì, e tirarli su. Però il problema è che in questo momento cioè, veramente il tasso tecnico è, cioè, il livello per me si è molto abbassato, ma l'abbiamo visto anche gli europei. Sì, mi sembra un macro discorso difficile da affrontare. Il fatto è che chi ha i quattrini, i grandi giocatori, se li compra. Quindi torniamo al ragionamento di prima, cioè esiste un'elite ristrettissima di squadre che possono pieno titolo sedersi, e senza dire bugie, sedersi alla tavola della Champions League e dire: noi siamo qui per alzare quel trofeo, siamo in 6-7, uno di noi la prenderà, per le altre restano le briciole. Assolutamente, tra l'altro forse prima i campioni, voglio dire, erano più distribuiti, c'erano più squadre che avevano uno o due campioni, all'epoca non si chiamavano ancora top player come usa oggi. E ora se guardi le rose di Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, un paio di inglesi, sono tutti lì, sono all'interno di grandi rose, concentrati in poche squadre, sono quelle che si siedono al banchetto principale, che si spartiscono i soldi dei 750 milioni che ogni anno la UEFA dà alle squadre che partecipano alla fase finale. Il Chelsea, per esempio, pochi giorni fa ha incassato 60 milioni con la partecipazione e la vittoria della Champions League, Barcellona 40, anche il Milan ha preso 40 milioni. Sono introiti che però devi saper gestire e devi commisurare a quelli che sono i tuoi costi. Queste squadre hanno anche saputo sviluppare quello che è, diciamo, la vocazione internazionale, quindi certo, la capacità di attrarre sponsorizzazioni e attenzione sui mercati esteri. Pensa che la Serie A incassa dai diritti TV venduti all'estero appena 120 milioni contro i 400 e passa che invece incassa la Premier League. Sì. Si dirà, la Premier League, c'è la tradizione, c'è l'impero britannico e quindi ha una sua espansione naturale, lo stesso per quanto riguarda la Liga Spagnola in Sud America. Però, se non ricordo male, questa bistrattata Serie A era da tutti considerata fino a pochissimo tempo fa il campionato più bello del mondo. Sì. E i tifosi vogliono vedere i campioni erano qui. Ora, come dice Galliani, questo non è più un paese per top player e speriamo che lo diventerà tra qualche anno, che lo ridiventerà tra qualche anno. L'altro giorno, ripeto questa mia sensazione, Milan dell'anno prossimo con Kakà e Pazzini scippato. Preso in prestito dall'Inter. Dai cugini che... E tu? Cosa dici? Ma io credo che Milan stia tentando un'operazione a Marcord, che potrebbe stare nei conti. Assolutamente, che sarebbe ottima per tutte le parti. Magari per Kakà si potrebbe anche trovare un accordo per cui una parte dell'ingaggio glielo paga il Real, un po' il Milan. Un po' Ibra che fa l'assegno. Ibra dovrà prima fare i conti con il governo francese. Ma mandami Mino Raiola. Guarda, io ho un messaggio di Marco. Dato che vorrei chiedere l'aumento, potete indicarmi come contattare Mino Raiola. Marco, prendiamo nota, le mandiamo il numero di cellulare. Prenderemo contatti con Raiola, anche perché magari insomma anche noi potremmo affidarci alla sua assistenza. Meraviglioso, ieri ho visto la foto della presentazione di Ibra che palleggia jeans e camicia bianca davanti alla Tour Eiffel, tutto l'establishment del Paris Saint-Germain, giacca e cravatta elegantissimi eccetera, e c'è Mino Raiola con le mani nelle tasche dei jeans, un camicione blu fuori dai pantaloni. Mi viene in mente quando andò alla Juventus a trattare Ibrahimovic in bermuda e sandali, e Moggi dice: ma come, Mino, come ti sei vestito? E lui rispose: sono qui per parlare di Ibrahimovic e di soldi, non siamo qui per parlare di miei vestiti. Quindi Raiola, io non ho parole per Raiola, è un mito ormai, gestisce il calciomercato mondiale. Ora forse ha preso anche questa delega per vendere Robinho, anche se il mercato brasiliano chiude venerdì, non so se farà ce in la tempo fa, ce la Mino, ma, ce, la può Mino fa. Ce la può fare, parte da Parigi, va a Rio, in due ore chiude. Roberto Treviso, sono qua. Dica. Allora, ultima cosa su Raiola, perché l'ho vista mezz'ora fa un'intervista, lui e Galliani fuori da un ristorante, e Raiola ha detto queste sue parole: è finito un modo di fare il calcio, bisogna incominciarne uno nuovo. Ma il suo. Detto da lui, vi assicuro che è la cosa più comica della giornata. A proposito, dovete guardare un'intervista cult, va bene? Sì. Invece l'intervento serio riguarda appunto il fair play finanziario, perché io non ci ho capito niente, sarà un mio limite e non è una vostra colpa, ma mi sembra strano che degli arabi investano tanti soldi che poi magari fra due anni non hanno più quella squadra non può fare. Non è che per caso questo del fair play finanziario sia uno spettro agitato solo in Italia, mentre nel resto d'Europa non serve, e serve chiaramente ai presidenti per impostare, cioè è una mossa mediatica di comunicazione per impostare quello che è la cosa logica che andrebbe fatta. Cioè lei dice Moratti da un paio d'anni agita questa bandiera perché non vuol più spendere quattrini, adesso lo fa anche Berlusconi, mentre all'estero shake o non shake se ne infischiano, il Barcellona prende Fabregas, prende Sanchez, ne prende degli altri, il Real Madrid prende tutti quelli che vuole, il Manchester United pure, eccetera. Io volevo approfittare un po' di brillanza, ma scusi, se lei fosse uno sceicco, no? Investirebbe i soldi nel Paris Saint-Germain sapendo fra due anni lei deve spostare le leggi, oppure ha già le contromisure, non so, rivende la squadra, cioè probabilmente non sono gli stupidi, nessuno butta via soldi, no? Ecco, tutto qua è un mio limite è un mio limite che cerco di superarlo attraverso di voi. Proviamoci, Marco. Non butteranno via i soldi, innanzitutto. Tra l'altro, spesso si trascura il fatto che c'è questa sorta di derby tra Qatar e Abu Dhabi. No? L'Abu Dhabi è lo Sheikh Mansour che è al City, il Qatar arriva, prende il Paris Saint-Germain e vuole superare il City. C'è questo derby interno, ma c'è soprattutto un'esigenza geopolitica. Ora non vorrei allargare troppo il discorso e fare discorsi troppo impegnativi, Carlo. Però il Qatar, che ha ottenuto l'edizione dei mondiali del 2022, ha bisogno di accreditarsi con il mondo occidentale. Hanno capito, come si era capito negli anni 50 in Italia, che il calcio, che il pallone è lo strumento più semplice, più immediato per ottenere consenso, per ottenere legittimazione a livello economico e soprattutto politico, e stanno facendo questa operazione, che è un'operazione ovviamente di breve termine. Prendo ora che posso tutti i campioni, cerco di vincere, cerco di avere un'immagine di assoluto successo. Dopodiché, se la UEFA nel 2014 mi dirà di rientrare, inizierò a rientrare e continuo a vincere. Se nel 2015 mi butta fuori dalla Champions, dirò che è colpa della UEFA e che l'Europa è torno contro... a casa, torno al mio palazzo d'oro e tenetevi il calcio. Esattamente. Magari poi i giocatori se li portano in Qatar e faranno un bel campionato. E nel Qatar noi compreremo i diritti da Al Jazeera, niente va sprecato. Fernando Frosinone. Sì, buon pomeriggio. Dica. Sono tifoso milanista e sarei ben contento del ritorno di Riccardino Kakà, ma non credo proprio che sia una cosa possibile, a meno che non ce lo regalano, oppure veramente quello scellerato di Ibra gli manda parte del proprio ingaggio, no? Sì. Ma volevo dire una cosa, cioè capisco il fair play finanziario e per molti aspetti lo condivido anche, ma l'unica cosa che non capisco è questo accanimento terapeutico da parte dei nostri presidenti, parlo in generale, di tenersi strette comunque queste società di calcio. Cioè, dico soltanto questo, ma Berlusconi, no? Ma gliel'ha ordinato il medico di tenersi il Milan, ha fatto 25 anni, ha fatto grandi cose. Adesso ci sono dei problemi, ma santo Dio, se è vero che può vendere, perché insomma anche ieri su Forbes il brand Milan era tra i primissimi posti con un valore molto elevato. Le domando, se lei fosse uno sceicco con tanti soldi in tasca, lasci stare il suo tifo per il Milan, verrebbe ad investire nel calcio italiano? Perché uno sceicco avrebbe dovuto mai investire nel calcio francese? Mica è messo meglio di noi, No, attenzione, il calcio francese mica è messo meglio di noi. Il calcio francese è un calcio, al di là della crisi generale, è un calcio che io scommetto, ma non lo scommetto così a naso, è un calcio in evoluzione, perché gli europei porteranno un nuovo modo di gestire il calcio anche in Francia, dove non hanno l'anello al naso. Al momento ci sono 500 milioni di distanza come fatturato complessivo fra Ligue 1 e Serie A. Tempo, io credo 2-3 anni, ci supererà anche la Ligue 1. E ripeto, se non si prendono immediatamente contromisure adeguate, il calcio italiano rischia una marginalizzazione che ora può pagare per 2-3 anni. Se non si interviene subito, si pagherà per i prossimi 10 anni. Io lo chiedo a te, fossi uno sceicco, investiresti nel calcio italiano? Assolutamente no, perché le società sono indebitate, soprattutto le proprietà, non accettano di essere messe da parte. Gli sceicchi, parliamo di quelli, ma in generale chiunque intenda mettere dei soldi in un'azienda vuole comandare. Finora tutte le ipotesi, tantissime che sono state ventilate, di cessioni parziali del Milan o dell'Inter ai cinesi, agli arabi, parlavano sempre, se ci ha fatto caso, di pacchetti, di azioni, di una percentuale, di una compartecipazione, mai di una cessione globale. Quando arriverà e poi lo chi te lo fa fare di mettere i quattrini in una proprietà altrui? Sarebbe folle. Appunto, questo è il problema fondamentale. Tra l'altro, l'unica proprietà straniera che noi abbiamo, cioè Roma, quella americana a Roma, sembra la proprietà più parsimoniosa di questo mondo. Forse i tifosi romanisti sono arrabbiati. Io credo che insomma dovrebbero ancora pazientare. Lì si è preso un progetto di lunga scadenza. Tra l'altro c'è ancora Unicredit, forse per quello non spendono ancora, perché c'è ancora una proprietà non chiarissima. Quindi certo, se mai dovessero avere la proprietà totale, magari anche gli americani farebbero gli americani a Roma. Andrea da Trento, e poi salutiamo Marco Beninazzo ringraziandolo naturalmente. Andrea, dica. Andrea, da Trento. Non c'è. È in mezzo alle montagne Andrea da Trento. Vabbè, pazienza. Continuiamo a parlare, chiudiamo noi allora questa chiacchierata. Il mercato della Juventus, la Juventus se lo può permettere? La Juventus, come accennavo prima Carlo, aveva da spendere questo tesoretto derivante dai 30-35 milioni che arriveranno dalla Champions se si supererà il primo turno, dagli incassi dello stadio, insomma, e ha, io credo, in qualche modo esaurito il bonus facendo le operazioni che ha fatto finora. Temo che il top player, nel caso juventino, il Van Persie e la situazione, 31enne, con un costo elevato di cartellino e soprattutto con un ingaggio elevato, difficilmente arriverà a Torino, ma mi pare appunto che Marotta lo abbia già detto, sì. E si sta virando su altre operazioni. Jovetic 30 milioni mi sembra improbabile, fuori mercato, per il mercato italiano, a meno che, diciamo, la Juve non riesca a inserire, non so, Quagliarella, il Madrid di turno, ma mi pare che Della Valle, vendendo Jovetic, poi vorrebbero soltanto soldi, perché dovrebbero rifare una squadra, perché non so chi resterà a Montella da allenare, visto che insomma stanno cedendo tantissimi giocatori. Marco, ti ringrazio. Grazie a te. Alla prossima. Allora, tutto quello che avreste voluto sapere sulle Olimpiadi e non avete mai osato chiedere. Varie ed eventuali. Dichiaro aperti i primi giochi aziendali. E ricordatevi, qui l'importante non è partecipare, è vincere. Alla squadra prima classificata non saranno concessi né premi, né inni, né onori, né coppe. Serve un arciere? Ce l'ho un arciere. Uccidilo. Vi serve un arciere? Ho domandato. Certo che sì. E in fondo, a chi non servirebbe un arciere? Fa pur sempre comodo avere un amico o un compagno di viaggio che da 70 metri riesce a scagliare una freccia al centro di un bersaglio dal diametro di 12,2 centimetri. E statene certi, non è un gioco da ragazzi. Il cuore del bersaglio, posizionato così lontano, fa lo stesso effetto che la testa di un chiodo a un braccio di distanza. Maestri della disciplina sono i coreani, con una tradizione che si tramanda da tempi preistorici del regno di Koguryo, 37 a.C. Saper tirare bene con l'arco apriva le porte dell'alta società, così come oggi per gli olimpionici garantisce vitalizi da leccarsi i baffi. A Londra ci saranno in palio 4 medaglie d'oro in competizioni individuali e a squadre. Naturalmente vince chi fa più punti e si va da un punto per il bersaglio più esterno fino a 10 per la scoccata perfetta. La forma dell'arco è quella classica in uso da più di 3.000 anni, cioè con gli apici curvati in direzione opposta all'arciere quando l'arco è allentato. E il materiale è composto da un mix di fibra di vetro, carbone e legno. In televisione lo spettacolo è garantito con telecamere doppie puntate su arciere e bersaglio, mentre dal vivo, con buona pace dell'appassionato miope, si vive un livello di tensione devastante e quel pizzico di paura per il tiratore maldestro. I partecipanti della squadra ultima classificata saranno tutti trasferiti nella nostra miniera di sasso stritto, frazioni di carbonia, e qui impiegati come muri d'assoma. Dunque, dopo aver saputo tutto e imparato tutto sul dressage, dopo aver capito che i lottatori non possono avere barba e baffi, oggi il tiro con l'arco. Chissà domani cosa ci prepara Franco Piantaneda. Roba da brividi. Pirenei, Pier Augusto Stagi dal Tour. Che succede? Ciao Pier Augusto. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Succede che si sta pedalando, abbiamo già percorso 67 chilometri, se non siamo a metà corso dei 147 in programma, c'è una fuga di 8 corridori, ancora una volta l'attacco, la maglia Puat del Gran Premio della Montagna Thomas Voeckler insieme a Martinez, Costa, Alejandro Valverde, Sandy Casar, però Kessiakov e Winning, da non confondere con Bradley Wiggins, che invece è maglia gialla. Bradley Wiggins ha avuto anche 5 minuti di terrore quando lungo la discesa del Col de Monte è scattato Vincenzo Nibali, ha fatto questa azione dimostrativa, è andato proprio sul gruppo di testa, nel gruppo di Vauclair e Leandro Valverde. A quel punto Wiggins e tutti gli Sky si sono guardati in faccia, hanno avuto qualche brivido. Nibali ha iniziato a guadagnare lungo questa discesa un 25 secondi di vantaggio, poi hanno cominciato a tirare gli uomini Sky. A quel punto Leandro Valverde è andato da Nibali e ha detto: guarda che se tu stai qua vengono a prendere tutti, faccio una cortesia, visto che noi cerchiamo di ci faccia il piacere la tappa, ci faccia il piacere, fermati. Allora si è proprio visto in maniera plateale il buon Vincenzo Nibali dare una mano ad Leandro Verde, ha smesso di pedalare e si è fatto riassorbire dal gruppo di testa. Questo appunto azione dimostrativa, un modo per mettere pressione, soprattutto Vincenzo le sta provando tutte, e quindi per non tenerli, per tenerli sempre lì sotto pressione in attesa logicamente della grande montagna. Oggi di grande montagna ce ne sono due, e soprattutto se arriva, anzi tre, se arriva in montagna ci sarà adesso il Port de Belè e dopodiché il Perisurde che abbiamo fatto già anche ieri pomeriggio, e infine questa volta però non si arriva in discesa ma si arriva in salita vera a Peyraguid, e speriamo che in questi ultimi chilometri si possa scatenare la bagarre, cercare in qualche modo di inventarsi qualcosa. Ultimo giorno utile, certo, assolutamente, se no credo che a tutti gli effetti in questo tour che senza Nibali, lo sottolineo, senza Nibali sarebbe stato d'una noia infernale, nulla togliendo agli uomini Sky e quindi a Wiggins e a Chris Froome, però rischiamo veramente di avere poi tre passerelle, perché sostanzialmente domani sarà una passerella di trasferimento per i velocisti, sabato ci sarà una passerella a cronometro con Wiggins che guida su una ruota sola. Bravissimo, e poi la grande passerella finale sui campi Elisi. Sì. Quindi auguriamoci che oggi pomeriggio qualcosa Vincenzo o Enzo, come lo chiamano i suoi genitori, riesca a inventarsi perlomeno per vincere la tappa, per almeno abbattere uno dei due. È difficilissima l'operazione, però il Nibali visto meriterebbe perlomeno il secondo gradino, perché per impegno, determinazione, voglia e fantasia ne ha messo veramente in campo tanta, e i francesi di questo dovrebbero essere contenti anche loro, perché sennò la loro corsa sarebbe già finita da 10 giorni. Come in effetti è, peraltro. Grazie Pier Augusto, ci sentiamo più tardi per il finale di questa tappa. Io chiudo con gli ascoltatori. Riccardo da Pistoia, 800 24 00 24 è il numero verde. Riccardo, buonasera Carlo. Buonasera. Volevo stamattina... È tifoso di ciclismo? Come? È tifoso di ciclismo? Ero molto più tifoso prima che venisse fuori tutte le problematiche del doping. Ah, quindi negli anni 70? Sì, purtroppo. Quando anche lì qualcosa c'era, vero? Lasciamo fare. Sì, c'era, io ero un amante del ciclismo, soltanto che hanno sciupato un po' il giocattolo, mi sembra, negli ultimi anni, credo. Sì. Per il resto sono d'accordo col discorso che diceva il collega su Nibali, che se non ci fosse stato Nibali, beh sì, ma tra giro e tour non so dove ci siamo annoiati di più questo depone in qualche modo a favore di un ciclismo che si sta ripulendo, perché la noia può essere figlia appunto del fatto che si viaggia su ritmi più umani, anche se poi ripenso all'altro ieri quando hanno beccato Frank Schleck e mi mordo la lingua, però tant'è, insomma, questa normalizzazione può essere un buon segnale. Dica Riccardo. Ma speriamo. Io ti avevo telefonato io sono un grande passionista di calcio, vabbè anche lì ci sarebbe da discutere anche lì, sì. sulla bontà di quello che vediamo. Comunque vabbè, dicevo, tifoso milanista, io non mi sono scandalizzato affatto della cessione delle due prime donne, no? Però perché insomma mi sembra che sia stata un'operazione finanziaria giusta da parte del Milan, e ho sentito dire stamattina che potrebbe esserci una possibilità per Matri. Sinceramente a me non dispiacerebbe la cosa, perché visto i nomi che ho sentito, Leandro Damiao, Dzeko, sono tutti giocatori da verificare nel campionato italiano. Matri è bene o male già inserito, è già un giocatore che ha fatto vedere delle cose interessanti, giovane, è un giocatore affidabile, è un attaccante certamente affidabile, lei dice. Sì, io lo vedrei bene nel Milan, proprio in virtù di questo rinnovamento, di questa nuova linea, diciamo, che portata anche al risparmio e anche verso l'Italia, insomma, io vorrei vedere le squadre italiane con i giocatori italiani finalmente, sarebbe piacere, quindi la vedo, ecco, insomma, volevo un parere tuo su no questo. Ma ci può stare, ci può stare, poi è chiaro che vendere al pueblo milanista Matri al posto di Ibrahimovic e poi dire vogliamo scudetto della Champions League mi sembra un'operazione già più complessa. Tanto prima abbiamo parlato di tiro con l'arco e l'arciere Mino Raiola scocca una freccia De Laurentiis. Amsic, se ti senti un grande giocatore devi giocare in un'altra realtà. In attesa della replica di De Laurentiis, Ivano da Monza. Poi chiudiamo. Dica Ivano. Sì, Carlo, buongiorno. Buongiorno. Niente, per il Milan. Dicevo, secondo me la cessione di Ibrahimovic è stata fatta perché il patron è stato scocciato dalle parole di Ibrahimovic tempo fa, che diceva che il Milan non ha più soldi. E allora ha bloccato la cessione di in primis di Thiago Silva, come dire, me li prendete tutte e due, ok, altrimenti Thiago Silva me lo tengo. Sì, poi c'è un'altra questa è una considerazione, poi c'è un'altra corrente di pensiero secondo cui Allegri già il giorno dopo la fine del campionato avrebbe chiesto la cessione di Ibrahimovic. Altre considerazioni, Ivano, se vuole le facciamo domani perché adesso siamo in chiusura. Grazie a Franco Piantanini in redazione, a Matteo Comes in regia. Domani alle 14 siamo di nuovo qui con A Tempo di Sport. Ciao a tutti.